Cosimo dunque andava a caccia quasi sempre da solo. E per recuperare la selvaggina, quando non succedeva il caso gentile del rigogolo che restava con le gialli ali stecchite appese a un ramo, usava delle specie d'arnesi da pesca, lenze con spaghi, ganci o ami, ma non sempre ci riusciva, e alle volte una beccaccia finiva nera di formiche nel fondo d'un roveto. Ho detto finora dei compiti dei cani da riporto, perché Cosimo allora faceva quasi soltanto caccia da posta, passando mattine o nottate appollaiato sul suo ramo, attendendo che il tordo si posasse sulla vetta d'un albero o la lepre apparisse in uno spiazzo di prato. Se no, girava a caso, seguendo il canto degli uccelli o indovinando le piste più probabili delle bestie da pelo. E quando udiva il latrato dei segugi dietro la lepre o la volpe, sapeva di dover girare al largo, perché quella non era bestia sua, di lui cacciatore solitario e casuale. Rispettoso delle norme com'era, anche se dai suoi infallibili posti di vedetta poteva scorgere e prendere di mira la selvaggina rincorsa dai cani altrui, non alzava mai il fucile. Aspettava che per il sentiero arrivasse il cacciatore ansante, a orecchio teso e occhio smarrito, e gli indicava da che parte era andata la bestia. Un giorno vide correre una volpe, un'onda rossa in mezzo all'erba verde, uno sbuffo feroce, irta nei baffi. Attraversò il prato e scomparve nei brughi, e dietro, wow, wow, wow, wow, i cani. Giunsero al galoppo misurando la terra con i nasi. Due volte si trovarono senza più odore di volpi nelle narici e svoltarono ad angolo retto. Erano già distanti quando con un uggiolio ui, ui, ui, ui, fendette l'erba uno che veniva a salti più da pesce che da cane, una specie di delfino che nuotava, affiorando un muso più aguzzo e delle orecchie più ciondoloni d'un segugio. Dietro era pesce, pareva nuotasse sguazzando pinne oppure zampe da palmipede, senza gambe e lunghissimo. Uscì nel pulito. Era un bassotto. Certamente si era unito al branco dei segugi ed era rimasto indietro, giovane com'era, anzi, quasi ancora un cucciolo. Il rumore dei segugi era adesso un «wah!» di dispetto, perché avevano perso la pista e la corsa compatta si diramava in una rete di ricerche nasali tutto intorno a una radura gerbida, con troppa impazienza di ritrovare il filo d'odore perduto per cercarlo bene, mentre lo slancio si perdeva e già qualcuno ne approfittava per fare una pisciatina contro un sasso. Così il bassotto trafelato, col suo trotto a muso alto, ingiustificatamente trionfale, li raggiunse. Faceva sempre ingiustificatamente degli uggiolii di furbizia. Uai, uai! E subito i segugi gli ringhiarono. Lasciarono lì per un momento la ricerca d'odor di volpe e puntarono contro di lui, aprendo bocche da morsi. Crà! Poi, rapidi, tornarono a disinteressarsene e corsero via. Cosimo seguiva il bassotto che muoveva passi a caso là intorno. E il bassotto, ondeggiando a naso distratto, vide il ragazzo sull'albero e gli scodinzolò. Cosimo era convinto che la volpe fosse ancora nascosta lì. I segugi erano sbandati lontano. Li si udiva a tratti passare sui dossi di fronte con un abbaio rotto e motivato, sospinti dalle voci soffocate e incitanti dei cacciatori. Cosimo disse al bassotto, «Dai, dai, cerca!» Il cane giovane si buttò ad annusare e ogni tanto si voltava a guardare in su il ragazzo. «Dai, dai!» Ora non lo vedeva più. Sentì uno sfascio di cespugli, poi a scoppio, wow, wow, wow, yay, yay, yay, yay, aveva levata la volpe. Cosimo vide la bestia correre nel prato. Ma si poteva sparare a una volpe levata da un cane altrui? Cosimo la lasciò passare e non sparò. Il bassotto alzò il muso verso di lui, con lo sguardo dei cani quando non capiscono e non sanno che possono aver ragione a non capire, e si ributtò a naso sotto, dietro la volpe. Yay, yay, yay, yay, le fece fare tutto un giro. Ecco tornava. Poteva sparare o non poteva sparare? Non sparò. Il bassotto guardò in su con un occhio di dolore. Non abbaiava più, la lingua più penzoloni delle orecchie, sfinito, ma continuava a correre. La sua levata aveva disorientato segugi e cacciatori. Sul sentiero correva un vecchio con un grave archibugio. «Ehi!» gli fece Cosimo. «Quel bassotto è vostro?» «Ti andasse nell'animo a te e a tutti i tuoi parenti!» gridò il vecchio che doveva aver le sue lune. «Ti sembriamo tipi da cacciare coi bassotti!» «Allora, a quel che leva, io ci sparo», insiste Cosimo, che voleva proprio essere in regola. «E spara anche al santo che t'ha in gloria», rispose quello e corse via. Il bassotto gli riportò la volpe. Cosimo sparò e la prese. Il bassotto fu il suo cane. Gli mise nome Ottimo Massimo. Ottimo Massimo era un cane di nessuno, unitosi al branco dei segugi per giovanile passione. Ma da dove veniva? Per scoprirlo, Cosimo si lasciò guidare da lui. Il bassotto, rasente la terra, attraversava siepi e fossi, poi si voltava a vedere se il ragazzo di lassù riusciva a seguire il suo cammino. Tanto inconsueto era questo itinerario che Cosimo non s'accorse subito dove erano arrivati. Quando capì, gli balzò il cuore in petto. Era il giardino dei Marchesi d'Ondariva. La villa era chiusa, le persiane sprangate. Solo una, a un abbaino, sbatteva al vento. Il giardino, lasciato senza cure, aveva più che mai quell'aspetto di foresta d'altro mondo. E per i vialetti ormai invasi dall'erba e per le aiole sterpose, Ottimo Massimo si muoveva felice, come a casa sua, e rincorreva farfalle. Sparì in un cespuglio. Tornò con in bocca un nastro. A Cosimo il cuore batté più forte. «Cos'è, Ottimo Massimo? Eh? Di chi è? Dimmi!» Ottimo Massimo scodinzolava. Porta qua, Ottimo Massimo!» Cosimo, sceso su di un ramo basso, prese dalla bocca del cane quel brandello sbiadito, che era stato certamente un nastro dei capelli di Viola, come quel cane era stato certamente un cane di Viola, dimenticato lì nell'ultimo trasloco della famiglia. Anzi, ora a Cosimo sembrava di ricordarlo l'estate prima, ancora cucciolo, che sporgeva da un canestro al braccio della ragazzina bionda, e forse gliel'avevano portato il regalo allora allora. «Cerca, Ottimo Massimo!» Il bassotto si gettava tra i bambù e tornava con altri ricordi di lei, la corda da saltare, un pezzo lacero d'aquilone, un ventaglio. In cima al tronco del più alto albero del giardino, mio fratello incise con la punta dello spadino i nomi Viola e Cosimo. E poi, più sotto, sicuro che a lei avrebbe fatto piacere, anche se lo chiamava con un altro nome, scrisse «Cane bassotto, Ottimo Massimo». Da allora in poi, quando si vedeva il ragazzo sugli alberi, s'era certi che guardando giù innanzi a lui o appresso, si vedeva il bassotto Ottimo Massimo trotterellare pancia a terra. Gli aveva insegnato la cerca, la ferma, il riporto, i lavori di tutte le specie di cani da caccia, e non c'era bestia del bosco che non cacciassero insieme. Per riportargli la selvaggina, Ottimo Massimo rampava con due zampe sui tronchi, più in su che poteva. Cosimo calava a prendere la lepre o la starna dalla sua bocca e gli faceva una carezza. Erano tutte là le loro confidenze, le loro feste. Ma continuo tra la terra e i rami correva dall'uno all'altro un dialogo, un'intelligenza, da bai monosillabi e di schiocchi di lingua e dita. Quella necessaria presenza che per il cane è l'uomo e per l'uomo è il cane non li tradiva mai, né l'uno né l'altro. E per quanto diversi da tutti gli uomini e cani del mondo, potevano dirsi come uomo e cane felici. Per molto tempo, tutta un'epoca della sua adolescenza, la caccia fu per Cosimo il mondo. Anche la pesca, perché con una lenza aspettava anguille e trota negli stagni del torrente. Veniva da pensare alle volte di lui come avesse ormai sensi e istinti diversi da noi, e quelle pelli che s'era conciato per vestiario corrispondessero a un mutamento totale della sua natura. Certo, lo stare di continuo a contatto delle scorze d'albero, l'occhio affisato al muoversi delle penne, al pelo, alle scaglie, a quella gamma di colori che questa apparenza del mondo presenta, e poi la verde corrente che circola come un sangue d'altro mondo nelle vene delle foglie. Tutte queste forme di vita, così lontane dall'umana, come un fusto di pianta, un becco di tordo, una branchia di pesce, questi confini del selvatico nel quale così profondamente s'era spinto, potevano ormai modellare il suo animo, fargli perdere ogni sembianza d'uomo. Invece, per quante doti egli assorbisse dalla comunanza con le piante e dalla lotta con gli animali, sempre mi fu chiaro che il suo posto era di qua. Era dalla parte nostra. Ma pur senza volere, certi usi diventavano più radi e si perdevano, come il suo seguirci la festa alla messa grande d'ombrosa. Per i primi mesi cercò di farlo. Ogni domenica, uscendo tutta la famiglia indrappellata, vestita da cerimonia, lo trovavamo sui rami, anche lui in qualche modo con un'intenzione d'abito da festa, per esempio riesumata la vecchia marsina o il tricorno invece del berretto di pelo. Noi ci avviavamo, lui ci seguiva per i rami. E così incedevamo sul sagrato, guardati da tutti gli ombrosotti. Ma presto vi fecero l'abitudine e diminuì anche il disagio di nostro padre. Noi tutti compassati, lui che saltava in aria. Strana vista, specie d'inverno con gli alberi spogli. Noi entravamo nella cattedrale, sedevamo al nostro banco di famiglia, lui restava fuori. S'appostava su un leccio a fianco d'una navata, proprio all'altezza di una grande finestra. Dal nostro banco vedevamo attraverso le vetrate l'ombra dei rami e tramezzo quella di Cosimo, col cappello sul petto e a capochino. Per l'accordo di mio padre con un sagrestano, quella vetrata ogni domenica fu tenuta socchiusa, così mio fratello poteva prendere la messa dal suo albero. Ma col passare del tempo non lo vedemmo più. La vetrata fu chiusa perché c'era corrente. Tante cose che prima sarebbero state importanti, per lui non lo erano più. In primavera si fidanzò nostra sorella. Chi l'avrebbe detto solo un anno prima? Vennero questi conti di stomacco col contino. Si fece una gran festa. Il nostro palazzo era illuminato in ogni stanza. C'era tutta la nobiltà dei dintorni. Si ballava. Chi pensava più a Cosimo? Ebbene, non è vero. Ci pensavamo tutti. Ogni tanto io guardavo fuori dalle finestre per vedere se arrivava. E nostro padre era triste, e in quella festevolezza familiare, certo, il suo pensiero andava a lui, che se n'era escluso. E la generalessa, che comandava su tutta la festa come su una piazza d'armi, voleva solo sfogare il suo struggimento per l'assente. Forse anche Battista, che faceva piroette, irriconoscibile fuori dalle vesti monacali, con una parrucca che pareva un marzapane e un gran panier guarnito di coralli che non so che sarta le avesse costruito. Anche lei scommetto che ci pensava. E lui c'era, non visto, lo seppi poi. Era nell'ombra della cima d'un platano, al freddo, e vedeva le finestre piene di luce, le note stanze apparecchiate a festa, la gente imparruccata che ballava. Quali pensieri gli attraversavano la mente? Rimpiangeva almeno un poco la nostra vita? Pensava quanto breve era quel passo che lo separava dal ritorno nel nostro mondo, quanto breve e quanto facile? Non so cosa pensasse, cosa volesse lì. So soltanto che rimase per tutto il tempo della festa, e anche oltre, finché a uno i candelieri non si spensero, e non restò più una finestra illuminata. I rapporti di Cosimo con la famiglia, dunque, bene o male, continuavano. Anzi, con un membro d'essa si fecero più stretti. E solo ora si può dire che imparò a conoscerlo, il cavaliere avvocato Enea Silvio Carrega. Quest'uomo mezzo svanito, sfuggente, che non si riusciva mai a sapere dove fosse e cosa facesse, Cosimo scoperse che era l'unico di tutta la famiglia che avesse un gran numero d'occupazioni. Non solo, ma che nulla di quel che faceva era inutile. Usciva magari nell'ora più calda del pomeriggio, col fez piantato sul cocuzzolo, i passi sciabattanti nella zimarra lunga fino a terra, e spariva quasi l'avessero inghiottito le crepe del terreno, o le siepi, o le pietre dei muri. Anche Cosimo, che si divertiva a star sempre di vedetta, o meglio, non che si divertisse, era questo ormai un suo stato naturale, come se il suo occhio abbracciasse un orizzonte così largo da comprendere tutto. A un certo punto non lo vedeva più. Qualche volta si metteva a correre di ramo in ramo, verso il posto dove era sparito, e non riusciva mai a capire che via avesse preso. Ma c'era un segno che ricorreva sempre in quei paraggi, delle api che volavano. Cosimo finì per convincersi che la presenza del cavaliere era collegata con le api e che per rintracciarlo bisognava seguirne il volo. Ma come fare? Attorno a ogni pianta fiorita c'era uno sparso ronzare d'api. Bisognava non lasciarsi distrarre da percorsi isolati e secondari, ma seguire l'invisibile via aerea in cui l'andirivieni di api si faceva sempre più fitto, finché non si giungeva a vederne una nuvola densa levarsi dietro una siepe come un fumo. Là sotto erano le arnie, una o alcune, in fila su una tavola, e intento ad esse, in mezzo al brulichio d'api, c'era il cavaliere. Era infatti questa dell'apicoltura una delle attività segrete del nostro zio naturale. Segreta fino a un certo punto, perché egli stesso portava a tavola ogni tanto un favo stillante miele appena tolto dall'arnia. Ma essa si svolgeva tutta fuori dell'ambito delle nostre proprietà, in luoghi che egli evidentemente non voleva si sapessero. Doveva essere una sua cautela per sottrarre i proventi di questa personale industria al paiolo bucato dell'amministrazione familiare. Oppure, poiché certo l'uomo non era avaro, e poi cosa poteva rendergli quel po' di miele e di cera? Per avere qualcosa in cui il barone, suo fratello, non cacciasse il naso, non pretendesse di guidarlo per mano. Oppure ancora per non mescolare le poche cose che amava, come l'apicoltura, con le molte che non amava, come l'amministrazione. Comunque, restava il fatto che nostro padre non gli avrebbe mai permesso di tenere api vicino a casa, perché il barone aveva un'irragionevole paura d'essere punto, e quando per caso si imbatteva in un'ape o in una vespa in giardino, spiccava un'assurda corsa per i viali, ficcandosi le mani nella parrucca come a proteggersi dalle beccate d'un'aquila. Una volta così facendo, la parrucca gli volò via, l'ape, adombrata dal suo scatto, gli s'avventò contro e gli conficcò il pungiglione nel cranio calvo. Stette 3 giorni a premersi la testa con pezzuole bagnate d'aceto, perché era un uomo siffatto, ben fiero e forte nei casi più gravi, ma che un graffietto o un foruncolino facevano andare come matto. Dunque Enea Silvio Carrega aveva sminuzzato il suo allevamento d'api un po' qua e un po' là, per tutta la vallata d'Ombrosa. I proprietari gli davano il permesso di tenere un alveare o 2 o 3 in una fascia dei loro campi, per il compenso d'un poco di miele, e lui era sempre in giro da un posto all'altro, trafficando intorno alle arnie con mosse che pareva avesse zampette d'ape al posto delle mani, anche perché le teneva talvolta, per non essere punto, calzate in mezzi guanti neri. Sul viso, avvolto intorno al fez come in un turbante, portava un velo nero che a ogni respiro gli s'appiccicava e sollevava sulla bocca. E muoveva un arnese che spandeva fumo per allontanare gli insetti mentre lui frugava nelle arnie. E tutto, brulichio d'api, veli, nuvola di fumo, pareva a Cosimo un incantesimo che quell'uomo cercava di suscitare per scomparire di lì, essere cancellato, volato via, e poi rinascere altro, o in altro tempo, o altrove. Ma era un mago da poco perché riappariva sempre uguale, magari succhiandosi un polpastrello punto. Era la primavera. Cosimo un mattino vide l'aria come impazzita, vibrante d'un suono mai udito, un ronzio che raggiungeva Punte di Boato e attraversata da una grandine che invece di cadere si spostava in una direzione orizzontale e vorticava lentamente sparsa intorno, ma seguendo una specie di colonna più densa. Era una moltitudine d'api. Intorno c'era il verde e i fiori, il sole. E Cosimo, che non capiva cos'era, si sentì preso da un'eccitazione struggente e feroce. «Scappano le api! Cavaliere avvocato, scappano le api!» prese a gridare, correndo per gli alberi alla ricerca del Carrega. «Non scappano! Sciamano!» disse la voce del cavaliere. E Cosimo se lo vide sotto di sé, spuntato come un fungo, mentre gli faceva segno di star zitto. Poi subito corse via, sparì. Dov'era andato? Era l'epoca degli sciami. Uno stuolo d'api stava seguendo una regina fuori dal vecchio alveare. Cosimo guardò intorno. Ecco che il cavaliere avvocato ricompariva alla porta della cucina e aveva in mano un paiolo e una padella. Ora faceva cozzare la padella contro il paiolo e ne levava un deng, deng, deng, altissimo, che rintronava nei timpani e si spegneva in una lunga vibrazione tanto fastidiosa che veniva ad aturarsi le orecchie. Percuotendo quegli arnesi di rame ogni tre passi, il cavaliere avvocato camminava dietro lo stuolo delle api. A ognuno di quei clangori lo sciame pareva colto da uno scuotimento, un rapido abbassarsi e tornar su, e il ronzio pareva fatto più basso, il volare più incerto. Cosimo non vedeva bene, ma gli sembrava che adesso tutto lo sciame convergesse verso un punto nel verde e non andasse più in là. E il Carrega continuava a menar colpi nel paiolo. «Cosa succede, cavaliere avvocato? Cosa fa?» gli chiese mio fratello raggiungendolo. «Presto», farfugliò lui, «va sull'albero dove si è fermato lo sciame, ma attento a non muoverlo finché non arrivo io». Le api calavano verso un melograno. Cosimo vi giunse e da principio non vide nulla, poi subito scorse come un grosso frutto a pigna che pendeva da un ramo ed era tutto fatto d'api aggrappate una sull'altra e sempre ne venivano di nuovo ad ingrossarlo. Cosimo stava in cima al melograno trattenendo il respiro. Lì sotto pendeva il grappolo d'api e più grosso diventava e più pareva leggero, come appeso a un filo o meno ancora alle zampette d'una vecchia ape regina e fatto di sottile cartilagine, con tutte quelle ali fruscianti che stendevano il loro diafano colore grigio sopra le striature nere e gialle degli addomi. Il cavaliere avvocato arrivò saltellando e reggeva tra le mani un'arnia, la protese capovolta sotto il grappolo. «Dai!» disse piano a Cosimo. «Una piccola scossa secca!» Cosimo scrollò appena il melograno. Lo sciame di migliaia di api si staccò come una foglia, cascò nell'arnia e il cavaliere la tappò con una tavola. «Ecco fatto!»